cioè, ma no del 20-30%, cioè del 100% superiore, ma proprio sembri qua vicino a me, manca paragone con Cobra. Ma c'è un altro verso il microfono, se io questo qui lo metto il microfono, Cobra va bene lo stesso. Va bene, ho capito, io sto parlando di come stai modulando adesso e come stavi modulando poco fa. Ma infatti io che cosa ti ho detto a te stamattina? Ti ho sentito col Cobra con un altro microfono, tu mi hai detto sì, l'ho cambiato. Questo microfono qua va bene sia per il gas che per il Cobra, capito? Molto molto bella, squillante, bella. E adesso con l'altro mi dà superstiti di chi metto fuori. Ehi, non avrei bisogno di superstiti, che devi diventare più 3 bit a Giuditto. Tanto sempre uguali sono, non cambia niente, siete missardi. Ed ve lo dico con molta certezza, ma con molta certezza. Perché ce li avevo tutte e due. E l'ho dato a Gavino Joker e Super Sideric, e io usavo sia Super Sideric che Altana più 3B, sono uguali. Però la mia voce, poi, se qualcuno mi dimostra il contrario, io sono qua, non c'è problema. Tu hai bisogno di un Tane più 3, non quello grigio, Tane più 3B, oppure il Super Sideric, che è uguale al Tane più 3B, non c'è una nulla, cambia solo questa decorazione che gli hanno fatto, però le capsule sono uguali, stessa impedenza, il circuito di preamplificazione è uguale, mentre il Tane più 3 grigio è diverso, sia l'impedenza che il circuito. Cosa, Tony? Guarda, ti sentivo meglio là dentro casa che dal giardino. Santiago 5, adesso, Santiago 5, ma con l'antenna sua, sì, Tony. Sì, Santiago 5, adesso, prima di 9. Se te l'hai già detto, arrivi meglio là dentro casa che da fuori. Adesso sei 2, mentre prima eri 4. Tony, è così, io ti ascoltavo 9, tu vai 5. Ma anche da me hai visto che calato. Claudio. Oi, e io, chi è? Chi è che mi ha chiamato? Claudio, tu sì. Ehi, è una cosa strana. E cosa ti è successo? Allora, col K arrivi 9.10 e con le C 9. Dammi che qua c'è. Questo non so. Qual è più preciso, lo Smitter? Non lo so. Ma dici qual è quello che avevi mandato di là? Sì, sì, tutto revisionato, tutto rifatto. Ma non lo so, guarda i K sono molto precisi, anche io notavo molta differenza tra l'ICOM e il Kenwood, non lo so. No, scusa Gianni, forse sto sbagliando, sull'IC c'è quell'antenna multibanda, quella 030, sul K c'è la Mantova. E allora la Mantova è Mantova per la 27, quella là è la multibanda, c'è sicuramente perdita. E anche Gianni lo vedo verso 7, 10, quasi 8. Ma adesso non ci fa in casa perché ho cambiato apparecchio, e adesso c'è il gas. Prima c'è un altro apparecchio più potente. Ecco. E mi stai arrivando 8, la radio è sempre buona. Questo qui è Galaxy Saturn con il vecchio Galaxy. Oh, invece c'era il dubbio, dov'è? Il vecchio, nel senso buono, dai, è l'apparato vintage. Questi sono Galaxy, quelli della Cingoma, come si chiama? Hai mai guardato il numero di serie del tuo? Ma il tuo qual è? 5 bande? Il mio... 4, 5, 6 bande. Da rara, Feli tu Garzico, quindi già è uguale a questo. No, devi guardare il numero di matricola che c'è dietro per vedere se è stato fatto prima o dopo di questo. C'hanno tutti i numeri di matricola. Ma guardatelo. Ce l'hanno, c'è il numero di matricola dietro, dove c'è vicino al PL c'è una targhettina. Cosa, Tony? Ehi, Rodrigo, sei 4, fuori sei 2. Hai visto la natura? Ma mi sei spostato, perché adesso sì, prima arrivavi 9, erano 7, arrivi 7. Ma come fare arrivavi 9, adesso sei 7. Ma non volevo l'apparecchio, per essere con l'antenna interna, Tony è di lusso. Io non è facile arrivare qua, mi dà dentro casa, Tony. ma cioè tieni conto dove sono io, la mia posizione, ma cazzo sei dentro casa, non è facile arrivare qua a Santiago 4, Beh, gente che arrivi a Santiago G, un'antenna esterna, cosa vuoi che ti dica, bene arrivi, chi c'è rimasto qua nel canale, Massimiliano ci sei, forse Massimiliano te la faccio la voce a Daniele. Ehi, ci sono tornato adesso. Ah, io riprendi. Riprendo. Cava. Adesso non so, Gianni, se mi ascolta meglio di quando ci siamo sentiti stasera, dopo pranzo. Ho voglia, adesso sei chiaro come la radio. Avevi, Daniele, la potenza troppo bassa e comprima e fa la radio, capito? Così va bene la potenza. Anche il mio va bene. Noi la massa di Nevalia mai vada a sottare. Dai, io me devo preparare che alle 7 c'ho appuntamento da notaio. Ci sentiamo già. Se rientro presto sentiamo dopo, altrimenti divertitevela. Ciao Daniele, Tonino, Gianni, Massimiliano, Claudio di Porto Torres, poi chi c'è, Luca e compagni, dai. Devo scappare, me devo solo infilare le scarpe e mettere in moto la barra mobile. Ciao. Ciao, là, ciao Tony, ci sentiamo, stiamo bene. Avanti già. Ciao Claudio, ci sentiamo. Avanti a chi tocca, mi prendi Daniele e fai girare, dai. Daniele, lo riprende, Claudio, lo riprendi tu. Allora, esce un cronio in QRX, avanti, vieni avanti di nuovo, fai girare. A Massimiliano, sì. Massi, sì. Qui prendi il Tony. Chi è l'amico che arriva più in basso? Cosa? Chi è l'amico che arriva un po' più in basso? Claudio da Porto Torres. Claudio da Porto Torres, mi copi? Claudio, l'hai sentito a Torino? Sì, l'ho sentito, basta ma l'ho sentito. Io sono coperto da Porto Torres, capito? Mi arrivi Radio 5, Santiago 5, una radio di 4 scarcia. Guarda adesso come ricevi, se il segnale è leggermente aumentato. È migliorato un po', però considera che qui c'è molto QRM, no? Sono un martello con questo rumore. Cappa, io non sono un sassare comunque, sono in campagna, tutto qua, avanti già. Cavalcava, ho detto qua c'è lo spazio, Vittorino. Senti, lo vedi che difetto mi fa? Magari tocca un tocca al filo con la batteria. Devo andare da cosa? Domani mattina non è voglia di uscire già. Mi sono coricato, non dovevo di nuovo la gamba. Ho fatto un bel pisolino, veramente sono stato bellissimo. C'era la 50 mia figlia, ha pulito tutta la casa e io ho fatto il pisolino. Poi li accompagnati, sono tornato e mi sono ricoricato. Ha fatto bene. Invece io domani devo ammazzare, domani è sabato. Cata. Domani devo ammazzare a fondo. Ecco. Lo vedono lo spray tipo CRC per i contatti del volume, eccetera, eccetera. Certo che lo vedo, non è affusato. Vedete anche l'aria, prima li passi l'aria e poi li passi qui. L'aria, cioè? L'aria è un momento, serve per soffiare e per togliere la polvere, se no la impasti, se c'è polvere, impasti con quella. Invece prima li passi l'aria e poi li passi lo spray. Capo. Allora prendo anche quello, prendo domani, faccio tutto un viaggio. Come CRC Tony? CRC si incasina, gara. Ah, non è mettere CRC, ma non si dite, ma tanto più te. Ma aspetta, non è il tuo tipo il CRC, si avrà un altro nome, là. No, ti prego, lo spray per contatti a secco, solo quello e poi. Poi nel tanne più 3, non è come l'MB più 5, c'ha delle lamelle. Quando tu l'apri c'ha delle lamelle. Quelle lamelle tu prendi la tela smeglio fine, non devi mettere nessuno spray. E le dai una bella pulita, fino a farla diventare lucida, perché tu quando la vedi è nera. Quel nero lì è praticamente tutta l'impurità che si mette. Una volta che tu le togli tutte quelle impurità, le fai lucide, il microfono torna normale, non c'è bisogno di mettere nessuno spray. No, io intendevo lo spray o Claudio per il potenziometro, perché ogni volta che aumento mi tira. salotto non esce. Anche lì puliscilo bene, puliscilo bene. Io non uso quel tipo di cose sui microfoni. Sui circuiti stampati può anche andare bene, sui telecomandi, ma lì se tu vuoi fare un bel lavoro, se deve a me, come sono abituato a fare io, come mi hanno insegnato, perché mi hanno insegnato, usa la trielina, ok? Il pennellino pulito, che non tiri fuori i peli, un pennellino pulito, lo pulisci tutto bene con la trielina, col potenziometro, e poi, come ti ha detto Gianni, lo soffi con la bomboletta dell'aria, e tu vedrai che non te lo fa più quel problema, Anthony. Non l'impastate così, l'impastate, non serve a niente mettere spray. Ma io tengo un tipo di CRC per i contatti, mica usiamo CRC veramente, quello uso per la macchina, per altre cose. Bene, Meda, grazie al consiglio, vai. Ma vendono, Tony, io me la sono comprata, sono quelle bombolette tipo succo di frutta piccoline, no? Ci sono dall'Eurospeed, ci sono anche la Cobec, la Conad, proprio trielina c'è scritto. Se no, se c'è un amico che c'ha la lavanderia, te ne fai dare una bottigliettina piccolina, come hanno dato a me, quella efficacissima perché è veramente buona, e pulisci il potenziometro con la trielina e poi lo soffi. Qua è una canonata. Io ho risolto un sacco di problemi pulendo, soprattutto i microfoni che fischiavano e facevano contatti brutti. Ho provato di tutto, poi mi hanno detto ma non impastare niente, prenditi la trielina e pulisci bene il circuito stampato, tutti i contatti con la trielina, e vedrai che non te lo fa più. E così è successo. Ma sappiamo che un potenziometro c'ha le lamelle che aumenta, diminuisce, si evume, eccetera. Quindi, ed è anche sigillato quello lì, là. Ma infatti, non è che le fai niente quando le sfrutti con lo spray. Maglialo sopra la trielina e poi lo muovi, vedi se te lo fa ancora. In caso contrario le puoi mettere un po' di spray di quello secco per contatti elettrici, ma non è quasi nulla lo mantessi. Quando arrivano così quei potenziometri vogliono cambiarti, costano 2 lire, è una stronzata a cambiarlo e te lo buoni nuovo. Mi sa me. Gira. Così. Perché si consuma il carboncino e ti fa quello che sta graffiando, che gratta così, il carboncino non succede niente se tu lo metti lo spray per contatti, perché è chiuso, capito, è l'usura del microfono. D'altronde, Tony, stiamo usando microfoni di 40 anni, cosa vuoi di più? Quindi ti conviene, perlomeno io ti consiglio, già te lo sai fare, te lo compri, e quel potenziometro, dai un'occhiata a vedere come è fatto, te lo compri, lo stacchi e te lo metti nuovo. Usi lo stesso pomellino esterno, ok, in modo che non cambi estetica del microfono e sia a posto. E non sai chi mi impatta nulla. Se poi ti vuoi pulire le lamelle del Tarnet, le fai con la tela fine, ed è una canonata. Dai raga, che sono pronto, sto andando, ci sentiamo più tardi se coincide. Ciao a tutti. Ciao, ragazzi, avanti già. Gianni. Gianni, se non ti risponde al telefono, dai, ci sentiamo dopo. C'è anche Daniele, mi pare. Ci sono, avanti lì. Riprendi. Ehi. Niente. No, stavo parlando con Massimo Emiliano al corso, su WhatsApp, perché la sua radio la sentivo male. Devo registrare, l'ho fatta ascoltare, in effetti forse il mio apparecchio è più sensibile e percepisce se un po' più di frequenza, capito? Non so come la banda che è più larga, più stretta, che ne so, qualche cos'è, perché io ti sentivo tutti bene. Ricappa. Avanti, Papa Tango, Papa Torres, e io non ci arrivo là. Niente, mi devo piazzare con la macchina per 5, aggiungo il riso. Ecco. Siamo. Avanti. Chi è avanti? Gianni. Chi è? Mi senti? Sì. Cara, stiamo sistemando un po' di cose qua, dai. E 920 qua, sta arrivando anche bene. Che radio stai usando? Sempre quella di poco fa già, ma è partito uno spezzone, si è fritto. In che senso? Mi stavano dando problemi già. Ogni tanto faceva scariche e sicuramente mi ha mollato. Vabbè, cambia, uno spezzone. Stai attento molto ai piedi, che quelli che stanno andando sono piedi di capo. Non abitano dietro, un casino qua. Sono tutti proprio difettosi. No, adesso sto andando dire. diretto senza passare dal rosmetro, dai. È uno spezzone, lo sto provando. Sì, vabbè, intanto se sai quanto c'è lì da un po' fa di stazionare non ci bisogna di attaccare. Cavagava. No, perché era un po' di tempo, no? Che per dire, stavo in ascolto e poi iniziava a sentirsi tutto a tratti, tutto a scariche, una cosa allucinante. E quindi adesso ho fatto la conferma che era lo spezzone. Ma lo spezzone è arrivato parecchio, due sono le cose, perché a me me l'aveva fatto, sai che cosa? Ho commutato le antenne, appena comprato, nuovo, mi faceva andare in cose, in corto, tutto la stazione. Poi l'ho attaccato diretto alla fine, dopo che ho fatto mille prove, mi è venuto a mettere attaccato diretto e andava bene. Infatti. No, questi erano delle spezzoni già preparati, capito? Era uno spezzone già pronto ed è il secondo che si frigge. E allora c'è qualche problema, non vedi qua? Cosa già? Un bel rivale di sera. Un po'. Non adesso, ma l'ho fatto andare. E anche quello, bisogna vedere se ce la fa resistere secondo quanto viene lì. Cavagava. Torino. Capo di Roggio, aspettamente un po'. Adesso com'è? Va bene. Ecco, allora. Oh, sei il sottantone di luna. Adesso esci più forte di poco fa. Ecco, va bene, ho aumentato un po' la radio. Ti siamo disorganizzati, di 9:30. E anche a me. Io quando ti arrivo a te di segnale qui. Idem. 9:30 e ci vedo le antenne sicuramente. Cappagato. Sognare, io dici che apparato c'hai. Hola, Coca-Cola. Chi è? Va? Cappa, ho ripreso io già, mi sono allontanato a farmi doccia e quant'altro. E io adesso sei bello forte, bello chiaro. Col Galaxy stai uscendo? E io col Galaxy. Ti sembri un ventrilo, sei bello. Si sente che la modulazione viene da dentro. Ehi, positivo, dai. E questo è il Galaxy col Turner. Bella carta, la modulazione è chiara. Va bene, chi c'è ancora in ruota già? Che ho abbandonato così, non so chi, se è entrato qualcuno, uscito, entrato, buh. Siamo rimasti io, come si chiama? Daniele e Tonino. Allora saluto Tonino, saluto di nuovo Daniele. Ok, dai, riprendi Tonino. Ecco, anch'io sto usando il Galaxy. Con Super Siderica, come mi ascolti? Con gli orecchie. No, già ti ascolto bene. Adesso sono modulato. Adesso con gli orecchie, ma già ti ascolto bene, perfetto. Ecco, anche tu stai andando bene, vai. Si vanno bene questi Galaxy, vai, sotto me. Guarda, vai. A me perché attacchi 220 e via. Ehi, vabbè, ma poi alla fine all'interno è un Galaxy Pluto, non ti pensare che sia. È un baracchino, un borsalletto, un comodino. Ma allora ho usato tutti i canali, l'SSM, capito? Frequenzimetro, svincolo, rosmetro, battimetro, c'è tutto. È completo, vai. Ehi, positivo, sì, è buono, va bene. No, io non ho il Super Sideric, ma ho il più 3B, ok, quello tutto nero, là. Dai, capo. Gianni, poco fa stavo usando il portatile. Cosa stai dicendo? Capo, col Sideric che ce l'ho io. L'avevo detto, Super Sideric, cos'è? La moglie di Super Sideric. Capo, è la femminuccia, poi c'è il maschietto, e poi c'è il figlio, Siderichino. Ehi, vabbè dai, portalo qua che lo vediamo questo Super City. C'è il Galaxy che sta aspettando, perché questo qua lo posso piegare, ci sta con l'altro apparato, quello il Cobra. E poi il Super City lo metti di contare con Galaxy. Beh, certo, ok. No, questo non si può dare. sono arrabbiato, voi accompagnatemi, sono ricoricato, non sono uscito per niente. Se uscivo mi compravo quella fare per la batteria, gà. La vita di Michelato, ma gli altri non va a spasso, così. Ehi, ma... non la sentivo già, la verità. Ehi, ma non ce ne vuole, ce ne vuole, ui. Già lo so, sì, quando c'è dolore è una cosa tremenda. Io vado a prendere quella pastiglia qua, ma potevo prendere la mattina, no, la sera devo prenderla, quella mi fa passare tutti i dolori. Ma cos'è un antidolorifico? Antinfiammatorio e antidolorifico, da 100 mg, è buona. E che pastiglia è? Dovrò andare dentro per guardare la, che marca è. E vabbè, ho capito, era solo questa un pezzo. Cava, perché può succedere anche, io di solito prendo lui, che è un po' forte. Lucchi ti rifà passare, però poi come passa l'effetto ti torna lì di nuovo. Aspetta un secondo che bello che marca è. Oh, se mi avete rilanciato, scusate, ma ero al telefono. Ehi, abbiamo rilanciato la Siviglia, abbiamo visto che non ci abbiamo continuato. Cappa già, va bene, va bene. Comunque di bellezza è carino quella radio, già, cosa dici? Sì, sì, è carino. Però lì bastava andare a far allineare la Siviglia, e fatto il gioco, capito? Basta che qualcuno che se ne intende lo allini. Probabilmente lo sai cos'è, che il malattino, quello che stavo usando poco fa, per intenderci il Cobra, è magari più sensibile, e riconosce di più se magari si frequenta, gli altri magari ci passano sopra, ci riescono lo stesso a sentirti, ma questo qui è proprio caso, sembrava fuori frequenta, proprio allucinante, l'hai sentito? Sì, sì, già, ho sentito, no, magari anche Marco me l'ha detto, che 27072, a 072 mi ascoltava benissimo, quindi vuol dire che è spostato, già lo trovo qualcuno a farla allineare, a voglia. Gianni, ehi, allora, si chiama Airtal, 100 mg. No, cosa, vabbè, se parlo bene, a pagare. Ehi, Massimiliano, ma... Già. Ho detto, te lo chiedi? No, non penso, no, boh. Se riesco glielo vendo, se riesco. Vabbè. Intanto, guarda, sarà spostato di poco, sarà da girare qualche trimmer e basta. No, va bene, lo faccio allineare, però poi glielo vendo, va. Centinaio di euro, non è buono. Come vedi, i pomelli già. I pomelli sono triangolari. Danieluccio! Eia! Daniele non c'è, sparito! Daniele non lo sento, Daniele! Oh, vabbè. KK, là, già, io me ne scendo un po' giù, c'è mia zuzzara, me ne scendo un po' giù, dai, e sto un po' con loro, se no mi rintano tutta la sera qui dentro. Aspetta, ecco voi, già. Sono le salute di questi medici di Fortibuone, il chirurgo, non certo la mia dottoressa, no? Ah, ho capito, sarà attento direttamente. Cappa, mi ha dato un balsam, 4 mg, una capsula mattina, e a Airtal una capsula la sera, per una settimana. Poi una settimana di bianco, non devo prendere niente, e poi riattacco un'altra settimana, e boh, capito. L'urbason per esempio è... come si chiama? Beh, non mi viene in mente, porca miseria, cortisone. Cavagava, ok. Come, non si è sentito più nessuno, Franco, non l'ho sentito. Ah già, Gianni. Attenzione, doppio. Un difetto mi fa. Ogni tanto... Thank you. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. Agganciatus. Eia. Final 9, a quasi 9.30 qua. Eia, eia. No, è ricezione che mi interessava, ma... Sembra ok adesso, boh, va bene. Ok, così in seconda, sì. E si conferma, in seconda, tutto acceso. Gingilla al minimo, ore 10, il mic. Va bene, sto uscendo alla grande, un bel forte. Va, anche tu qua sei 9.30, vai. Spero che sia questo di PL, che non ci sia altri inghippi strani, che gli ho fatto già due saldature, tre saldature a nuovo. Boh, vediamo. Prova a attaccare a lui adesso. Guarda, adesso è spento, c'ho solamente il preamplificatore acceso, là, diciamo. Aspetta, riprova che c'è stato forse qualcuno che ha sovrappopolato. Allora, questo sono liscio come l'olio. Il drone l'abbiamo spento. Allora fai da 7 a picchi di 9.5, solo con la radio. Cavolava, e sono al minimo io, Massimiliano, proprio a 0. Fatelo un conto, tanto spinge. E va. Guarda, adesso è ore 12, come abbiamo detto prima. Ecco, così i picchi sono leggermente calati, però per fare così, questo è un radio migliorato. Cavolava, eia. Adesso prendiamo questi parametri qua e facciamo le regolazioni. Andava bene, veda. Va bene. Ok, dai, ma sì, ti lascio andare, dai. Poi se sento qualcuno già resta in ascolto per vedere se rifà, come ti ho detto prima, quel problema. Sì, aia, la ricezione com'è? Buona, vero? Va bene? Sì, no, niente da dire, ricezione va bene, no, è perfetta, non è niente da dire, anzi. Vabbè, adesso usando la cassa esterna, però anche con la cassa sua è perfetta. Va bene. No, stavo parlando per vedere se ascolti sempre a tratti e balle varie, hai capito? No, va bene Massimiliano. Per adesso, sì, riguardo al problema che c'avevo prima, per adesso sembra di sì. Allora vedi, magari c'era qualcosina che non andava bene sul PL lì, e adesso facendo questa saldatura è risolto, vedi? Perché le ho fatte a tutte e tre i PL, dai, capito? Della calata e del, come si dice, dello spezzone. Beia, Asco, prova a passare in FM a vedere se ti ascolto bene con quella radio. Va. Sei passato tu in FM? Cosa? Ma tu accedi in FM? E allora non c'ero. Sembrava che eri in AM. No, adesso ho ricambiato in AM. No, ti sentivo tutto distorto, tutto un po' incomprensibile. Va bene, no, l'importante è che sono preparato i binocchi che si usare. Cava, già c'è l'altro per l'FM, già abbiamo tutto e per tutti, non c'è problema. E beh, poi Albino l'avevi sentito per vedere cosa era il danno e cosa lì? No, Massimiliano, non ho avuto modo, me ne sono anche dimenticato, ma lo sentirò prossimamente, dai. Poi vediamo lì, sto facendo step, diciamo, le cose. Ah, ok, no, va bene, ok. Bene, mi ascolti qua con questa radio, sì? Benissimo, sono una telefonata. Anch'io ti ascolto bene, no? Ti ascolto molto bene, così, con questa regolazione qui ti ascolto benissimo. Cava, meglio così. Va bene, ok Massi, dai che sono retto un po' al piccolino e qua era tutto acceso, poi metti in ascolto, come sento qualcuno e vediamo cosa succede, ci ho fatto tutto giusto, dai. Andare era giusto per la prova, secondo me è risolto. Ok, ciao Daniele, ci sentiamo. Ehi, Amassi, buon proseguimento, buon tutto, dai, buon trabacco per domani e alle prossime. Ciao, ciao. Ciao, ciao, no, domani non lavoro, domani è sabato, è lavoro. È vero, io mi ho perso la concezione del tempo. Andare, ciao Daniele. Ciao Amassi, ciao, ciao. Finalmente mi sono deciso, dai, perché me lo devo sistemare, diciamo, tra virgolette, perché sta già sistemato, però trovo la soluzione è come fare una scaletta fissa senza rompere le scatole. Ho capito, va bene, meglio così. Anda Benereda, anda Benereda. Bene va questa modulazione, ti, bene mi ascolti. Va bene anche dei picchi positivi abbondanti, quindi va bene. È da 9.15 a 9.22, quindi la voglia. Ottimo per la truppa. Già va bene, va male sì. Andiamo, carta. E lo è, Michael. Permetti, quasi ce ne hai. Tutte vendute, cazzo, porca troppa. Adesso ce la faccio, mi stanno regalando il container. Dopo la prossima settimana devo piazzare, domani mi faccio il basamento. Bello, bello, bello, sono contento. Poi gli metto il liquidificatore e il condizionatore, così almeno stagionano anche in estate. Bella mossa, bella mossa. Se ti serve una mano avvisami, Eia, tu no, questo sabato non faccio niente, tu. Questo sabato io faccio il piano, fronte a casa, sotto l'albero, così è anche più fresco, poi gli faccio anche il pannello solare, ho proventato, e già, non ho cosa da fare, vabbè. Dopodiché ha riparto, mi ho preso anche l'attrezzatura per farlo, per farla qua, quindi. Mac! Sì, un attimo, aspettati, no, non ho mano a darti una mano, loro cose pesanti, cioè la scena messa male qua. Oggi mi si è bloccata la schiena, porca paletta, mi sa che il bururio devo rincorrere a farmi controllare, altro che. Hey, Tuesday! Io vabbè, gli anni passano per tutti e poi l'importante è invecchiare bene. Caffa, buonasera a tutti, buonasera! Ciao Anto, ciao! Un Ariello, ciao Bombolino! E cosa fai la racchina lui? Ogni tanto non mi si mette in moto questa cosa. Cosa cavolo adesso, ho delle scosse, mi prende anche le natiche. Aspetta, vado a controllarmi la pizza. Io il venerdì faccio la pizza. Invece di comprare a mira, spendi poco e mangi molto. Ripetete. Ho visto, stavo per dire che a te non c'era un petto. Io mi sto accendendo il fuoco. Guardi, è veramente buona, ma buona, buona, gustosa. Poi ci metto un po' di olio piccante alla fine. E mi bevo anche un bel bracchetto. venerdì ci vuole. Venerdì è rilassante fare queste cose qua, così almeno ti scarichi tutta la pesantezza della settimana, perlomeno per chi sta lavorando. Consigliami pure a me come farla lui nei questi giorni. Già te lo consiglio, anzi, te lo consiglio io, c'è buona veramente qua, buona. Nessuno di saper fare buono, cioè saper fare buono. Io ci metto l'origano, poi io le ho piccate, un po' di sale, lo giro bene e poi una volta che è pronto me lo spargo bene e poi ci metto tutti gli ingredienti, mozzarella, funghi, prosciutto, olive, ci ho messo anche la gorgonzola, va, esce veramente buona. Ma l'impasto tutto da zero lo fai tu? Luca, hai sentito? No, ho sentito, non sei uscito, dimmi. Ho detto, l'impasto tu lo fai? No, assolutamente no. Prendo l'impasto, c'è cosa già fatto, ma è veramente buona, Daniele, esce veramente buona. Cara brava. No, perché l'altro giorno abbiamo fatto qua noi l'impasto già pronto, però... cioè, messo il sale, messo tutto, fatto, però non era... c'era un che non andava, capito? Vabbè, piano piano, allora, andiamo di nuovo in lockdown, mi assillo con l'impasto e... non vedo a farmi l'impasto io, ma la faccio io da zero, praticamente. La riprendete un attimo. Cara brava. Va bene, va bene. Ma riprendi il bombolino e fai girare, vai. Mi hanno detto che da Cesaraccio vendono la pasta proprio per fare giù a Predaniella. Vendono la pasta per fare la pizza, mi hanno detto. Ma guarda, è vero, però se scendi anche alla panetteria qua vicino a casa ce l'hanno, al Conad c'è. Ma cosa, buon arredo di Subani, lo sanno fare? Non so come si chiama, la verità si dica, è attaccata a casa ma non lo so. Però già, lì è buono, sì, il pane è ottimo, niente da dire. Poi c'è anche Alcona, tanto non so se mi hai fatto caso, qua, Alcona di Monserrato, nel banco frigo, c'è proprio l'impasto già pronto. No, vabbè, ma la pasta più buona è quella che ti danno loro, i panifici. Chi ci impogare due strane, no, non è un granché. Cava, riprendi il tiro! Dai, io sto picciando il fuoco, quindi ogni tanto mi assento, e quindi se non vi rispondo è perché sono fuori, e quindi mi devo attingere a creare la graticola e quant'altro, quindi per il momento sono qua, l'ho appena acceso e aspettiamo. Cappa, con l'olio piccante comunque a me non mi piace. Normale sì, ma il sugo non ci vuole niente a farlo. Dipende sempre da quanto lo fai piccante, capisci tu? Basta trovare la dose giusta, poi te lo fai troppo piacimento, più piccante o meno piccante. Ci credi, allora io faccio mia una piccola campagna, quindi... Bianco un secondo. Nel caso anche l'olio d'olivo. Non riesco a farlo piccante quanto voglio io, eppure ho preso quei peperoncini piccolini, quelli piccanti. Non lo metto nell'olio mio e non riesco ad avere la cosa che desidero, ecco. No, io proprio sul piccante, guardi, no. No, preferisco mangiare normale perché poi mi si mette sullo stomaco, mamma mia. Non lo so, mi piace, non è che non mi piacciono, però no, non posso mangiarlo perché ho questo problema qua. Vabbè, finché uno ha un problema è logico, cerca di evitarlo. Ma a me piace il piccante, io sono da piccolino, sempre i miei hanno sempre cucinato un po' piccante, quindi... non riesco a raggiungere la quantità che preferisco io, capito? Facendo l'olio così. Cercherò di comprare altri peperoncini con calabrese. Vediamo se veramente funziona. Prova, non lo so, chi è il più forte? Basta sapere chi è il più forte. di peperoncino e usi quello. E magari vi riesce a farlo. No, no, a me proprio no, non mi si para. Cioè proprio no, non riesco. Cioè, ma mi piace il piccante, però poi mi crepa, mi fa male. Pazienza, cosa devo fare? Mangio senza piccante. Allora, va bene, vado a controllare, dai. Sì, vai, vai, di. Rientrato, sì, Daniel. Bomboli! Aspetta un attimo che metto a caricare la bici, 2 secondi, scendo giù. Papà! Ehi, eccomi! Ecco te! Eccomi qua! Voi questi giorni che sono libero, passate con Lorena e tu il bambino e prendete il caffè a casa, o quello che è. Ehi Anto, già ci organizziamo e ci facciamo una scappata. Ehi capa, ehi sul terremoto, crescendo sta. Ehi, c'è già 8 anni il terremoto. Ehi, 8 anni sono passati, mamma mia. Ehi, ormai è grande. Cava, cava. Ehi, io sto invecchiando. Ehi, non si invecchio ancora. 40 anni mi va, no. E si conferma, tra un po' metto più uno. Ah, ho capito. E non si invecchiano, e si giovano ancora. Vabbè, vabbè, ci facciamo ancora giovani a tu. Sono più giovane di te, faccio 36 anni. E dimmi, ne sono pochi, 5 in meno. L'importante è che funziona una cosa. Eccolo. Ecchi, non è vero. Quello già è vero, Anto. Cava, cava. Bene, mi stai ascoltando adesso, sì. E già un grido, via. Sei 9.40, Radio 5. Tu bene mi ascolti. Ehi, forte e chiaro, Anto. Forte e chiaro, 9.30, sì, dai. Va bene, va bene. Sto facendo una prova, dai. Cava, cava. Ehi, a capa. Ehi, voglio sempre un video di ciao, ma cado io. Ma a volte alzo troppo la voce. No, già va bene, dai. Va bene, va bene. L'importante è che mi senti bene, che sto facendo alcune cosette qua, stiamo sistemando. E va bene. Capa. Ok. Va bene, sì. Va bene. Capolosa, va bene. Ehi. Al tuo vicino, l'altra volta, cioè qualche un mese fa è entrato, lo sai. Oh, risuscitato, eh. Eia, risuscitato davvero però. Non c'ha più antenne né nulla. Era con un pezzo di virus e scende. Oia, oia, vabbè. Contento lui. Dice che l'ha dovuta togliere perché non stavo facendo il tetto, non so. Ah boh, questo non lo so, non lo so Anto, chissà aveva venduto tutto, boh. Ehi, già là ancora, non ti preoccupare. Cava, cava. Peggio per lui che non entra, a dove ti dica. Ci facciamo 2 chiacchiere e ciccia. Capa. Intanto ci vado in quel palazzo, a portare la bombola. Già, ti ho intravisto qualche volta lì la macchina ferma. Capa, adesso stai vivendo a casa di tuo padre, sì? Casa mia, giù, a tu. Su c'è rimasta mamma. Meglio così. Ma già ti hai preso su o giù? Al piano terra c'ho io. Ah, capito. È devolato, Sapete, sono vecchio. Non sei vecchio ancora, Oia. Ma c'è il primo piano e il secondo piano pure, o no? C'è metà del piano terra e il secondo piano. È buono così, dai, almeno. Almeno un pochettino. Io sono contento. Guarda. E tricatrac e rockerlo. E cicchicciac. Nulla. Dende già. La situation. E te l'ho detto che l'altro giorno, cioè, ieri ho parlato con l'ingegnere della REM, cioè Lulu Grubadrono. Gli ho spiegato com'erano i fatti per il rinco che si staccavano da sotto. L'avevo detto. No, ma tu, a me non hai detto niente. Capa, ho parlato col titolare, ho parlato dell'azienda, gli ho spiegato com'è la cosa. Ho voluto il mio numero di telefono, magari gli ho detto, guardi, dopo 6 mesi mi si è staccato il pezzo, si sono aumentati anche altri CB, gli ho detto, veramente non ci ho detto niente. Non ce l'ho detto, va bene, mi ha detto, si è notato il mio numero di telefono, si è notato, magari mi manda la cantenna in omaggio, mi organizzo, quella là l'ho aggiustata, no? Quella che c'ho di scorta. Sei in garanzia a toccare a tu, capito? Se ti dice spigli alla striscia vai a trovare un'altra nuova. Ma glielo ho detto, guardi, me l'ho aggiustata, gli ho detto, ma non ho problemi, gli ho detto, ma ci mancherebbe, gli ho detto, però c'è questa lamentela qua, magari ne prendono una e fanno le prove, hai capito? E se ne accorgono che c'è qualcosa che non va bene. Perché si chiesa molti cibi. Quindi però se nessuno va lì e si lamenta, gli dice niente, le cose non le sanno loro. Andando a costruirla sempre così. Invece io mi sono lamentato, ho parlato con chi, la persona giusta, ho telefonato proprio al titolare dell'azienda e via. Magari chissà, magari come cosa, Giannani di Nagis me ne spedisce una gratis. E infatti. Chi lo santo, tanto a loro non costa niente lì. Non è più né meno. Tra quello che producono e quello che incassano. Già lo so già. Se me la regalano a qualcuno che ne ha bisogno, quella che ho io gliela do. È stata aggiustata bene da me, eh. Sembra danno nuova. Con quella sei tranquillo che non è con quella non te ne dà problemi, chissà ti dura una vita sul tetto. Già va bene, meglio così, dai. Già le sanno loro le cose, ancora, che non le sanno, però fanno tutte le prove prima, capito? Perché fanno i furbi e la mettono sul mercato. Ma meglio se le modificano, o no? Se li facessero quella modifica lì, sì, sarebbe il top. È giovata io che non l'ho riparata, quella lì, se io la dovessi mettere, non si farà manca a balla, non si impara. Ho messo un bullone di acciaio inox in mezzo, isolato. Gli ho fatto tutta una procedura. L'ho provata qua a me. A quello cernaio, c'ho anche le fotografie, l'ho provata 1-1 di stazionaria, dentro casa, Santiago non per arrivare. Già va bene, meglio così, la me è parcheggiata in garage per di scorta. Per ogni evenienza non si sa mai, che quella già funge anche quella. Ma che modello hai? Quella con le fascette o quella con le vite? La vite è tutto, tra l'evento e l'altro c'è la vite. Cioè quella che sto utilizzando io adesso. Però già fungeva quando lo usavo io. Niente da dire, faceva anche collegamento, andava al 45 e mi sentivano, cioè niente da dire, capito? E stavo usando, se no, un 70 watt. E la pompa, regia, già funzionano bene queste qua. È colpa mia qua, se la metto in altezza, vedi che pompa. Come mi la sta Gianni lo profeta, tu? Io l'ho andata a provare e poi non gli è piaciuta, come era resa. Ha preferito la boomerang e si è tenuto questo. Antonella. Capa, guarda l'effetto canno che sa compone stazionare, basta pulirsi un po' di grasso. Guarda che isola tutto, è stazionare, non è quasi. Sì, lo fa, ma poca roba. Rosso, Anto, Rosso. Io l'ho provata la tavoletta per un anno intero, tutto l'inverno, estate, prima di cambiarla, e nessun problema, anzi, andava più che bene. Ma forse la prima serie era meglio. No, quella non lo so, non l'ho mai provata, non te lo so dire, però mi sa che anche quella aveva lo stesso problema, che col passare del tempo scendeva. Cappa, non è che scende, che si stacca, quando tira il vento poi si stacca, perché scendere scende, cioè deve essere messa come deve essere messa, e che col vento poi ti crea stazionari, hai capito, se non è collocata bene. Caramba, mentre questa che c'ha adesso, l'energy 5 ottavi, quando tira il vento si piega, capito? Mi va di troppo, si spacca. Anche questa si piega, però no, ti stavo dicendo, il primo modello è quella che abbiamo noi, quella che sto utilizzando adesso. Il secondo modello è l'altra, quella con le fascette, hai capito? Ho capito. No, è un modello vecchio, così è tu. Sì, questa era il babbo, questa qua. Dai che una cannonata, dai che non andava. Già funge. Se no, se ti rompi le scatole, veramente ti prendi un energy come queste e con poco te esci e rendono. E che me lo fa fare? Se non sei soddisfatto, se ti convince quella, ti ispira, usati quella. E che me lo fa fare? Funziona benissimo. L'unica cosa che avrei dovuto fare è mettere un pelo più alto, allora avrebbe reso un po' di più. Che me lo fa fare a me cambiarla, se va bene l'antenna? Cavalava, già va bene, vai va tu. Anda bene, veda. Il cavo è quello H500, no, H155 il cavo, Ho capito. Meglio del 58 già è. E tu la stai utilizzando? Io il 213. Che buono. Tutto il 213 ho fatto, Antu. Non lo posso utilizzare io, perché c'è luce meglio, qua se devo bucare tutto. Non è che non lo posso usare, che fa un travaglio, mamma mia. Perché è rigido, è un macello, e poi anche come grossezza. Cappa, invece questo qua va benissimo, morbido, si presta benissimo e va alla grande qua. Cava. Ma c'è anche Rugariello. E Tino. Io sono qua, Sono andato a controllare se è stata rotta nella graticola. Già va bene, Tino. Così è. C'è chi ha qualche accordatore di antenna da vendere invece? Io zero. Io idem, sì, zero. Adesso cerco un po' qua, che me ne serve uno. Io per là mi compro un bel rosmetro, mi sa che mi compro quello che c'è una persona che mi è piaciuto moltissimo. Costa 160 euro, ma è un rosmetro vero però. Quello della Daifa? Sì, bellissimo qua. Sì, è bello, sì. Io sto cercando un accordatore che però mantenga almeno il chilo qua. Sì, secondo cosa è, bisogna metterci quello, per forza. Non mi ricordo se era Daiwa o un'altra marca, ma era bello illuminato, molto bello. Il Daiwa è anche l'HP3, usava la sorte lui. E allora chi su? Bianco un secondo? E Ok Daniel, adesso D non lo so se fa anche l'accordatore quello lì, non lo so. Ho visto che era molto bello, molto valido come strumento pure. No, è solo un rosso ricordato, ecco. Non lo so, quello che gli incrociati fece. Sì, quello lì. No, non è accordatore. Scappa. E poi mi sono visti della ZG che mi hanno sconsigliato a prenderle. Poi quelli sono così, giusto per... No, vabbè, forse è quello che mantiene il kilowatt è un pochino più serio degli altri, ma la ZG è sconsigliabile. Io ho un rosmetro, ne ho uno per della cosa, ne ho uno della... in Orabona, adesso non mi viene, della Intec, ma funziona bene però, mi piccolino, no, roba più professionale, cioè, roba un pochino più non selettiva, anche perché avevo, devo vedere cosa sto emanando, capito? Sono oggi, no. È una cosa un pochino più veritiera. Crappa, è già c'è. Così chiama già c'è. Mi sono trovato uno bello questo, però. Fatti 250 della Kenwood. Vabbè, 250 euro, ma quello è il suo prezzo, non è che, però. Non mi interessa averlo poi. Ah, crappa. Ma hai detto che è l'unico strumento buono che tu HP1000, ma vedi com'è te. È buono. Va bene, ragazzi, che mi devo attingere a fare il mio dovere. Se prima più tardi lì, intanto se coincide, a dopo, che devo gravigliare. Ok, fai ti. Ciao Tino, buon proseguimento, vai. Ciao, ci sentiamo. A dopo se coincide, eh. Cava. Riprendi anche tu. Capa, ciao Tino, ci sentiamo. Ehi, Dani. Così è la storia. Mamma. Poco cracco il gioco. Molto è consegnato Gianto. No, la consegnerò ciò perché io sono proprio stanco sono. Cava. Sera V, sto guardando me il rosmetro adesso qua. Come? Hola, sei a posto. Andava, lo stavo dicendo, però pure strada, ancora vai. No, quello no, sono a ricerca di un altro. E che gli è successo? No, quello dato. È venuto, ma non qua. Sì, ho una chance, ma in Sardegna. Ah, non mi hai scocciato, tiene. No, quanto, non scocciato, no, ma... Stavo iniziando a farmi uscire di testa. Sono macchine particolari, sono. È una di vera prigione, una di vera differenziale, mamma mia. E quella l'ho fatta l'anno scorso, 2 anni fa. Altra porta, no, c'è un'altra sincope. E avevo voglia di stargli appresso. Sincope, cosa è? Devo cambiargli il volano. Perché si era sgranato un dente e quindi l'ultimo avviamento non stava lavorando bene. Mamma mia, le macchine vecchie sono. Ma sono sempre le migliori, Antu. Lo so, naturalmente quando te la barcheggiavo ora. Ma i tempi che furono? Oh, ma freni questa macchina! Così, non è che era chissà cosa, no? Quale vi conosce, Antu? devi dare del lei a quella macchina. Io la già sono tutti burrucchi così un po' carendo, eh. Se spendi i soldi già te la fai come vuoi. Vabbè, cappa, ma no. Non sono macchine assai così, cioè sono macchine che ci vogliono i soldi per tenerle. Ah no, a te le non a tu, perché paghi tutto poco. Capito. Ehi, che... Poi una cosa, tira un'altra e non esci più alla fine, cavolo. Si qua non finisce il giro. Non so, ma ogni pezzo il compagno di queste macchine mi vuole burudinamme. Non ti credo, eh. Non ti credo, dipende dalle tue finanze. Ma bene o male, sono tutti equivalenti quei pezzi. Alcuni sono a pagare, sono una marca, ma alla fin fine non ne vale la pena. Ma alla fin fine è riuscito a mettere una marmitta. Sì, a posto. L'avevamo costruita. Ed è andata. Già si sentiva, no, a tu? Gna gasino, fantia. E la sentivi solamente lì dentro. Se devi accelerarlo. A urlava. E il turbo si sentiva molto. Quello si sentiva, Sì. Ma era meglio normale, cavolo, tutta modificata era. Ma qua se la piccava dappertutto, tanto. Chi ce l'ha adesso dice, cavolo, questa macchina, ma quando faccio salita c'è la pena a sgommare, poi fuzza. Non ti accelereranno. Il motore che c'ha, è logico, se non la conosci. Ma non per monuendo a farla andare questa macchina. Quella se inizia a accelerare non finisce più. Non vuole, non deve accelerare. Devi usare le marce giuste. E allora? Non ne comprendi di nulla fuori strada. Un bambiocco, cavolo, per carità. Quello secondo me quello si ammazza. Dillo me. Non lo ricordo, non è partito di Sano, mi sembra, non ricordo il paese. Ma cos'è mezzo pastoreddo, Cosa tu? Detto mezzo pastoreddo, Ma la sorte già ce li hai i soldi, al da fare lo pastorello, ma quello è in busciacara. Ehi, si conventone, so. Quello prima andava a lavoro in azienda con Mercedes. E a me cosa anda? Con la Ferrari? Con fuori strada. Proprio da giusto, un pastorello proprio. Che lui c'ha l'allevamento, non so che i cavalli cosa c'ha, vedo se lo usa. No. Vuol dire che va via Ridina. Anche perché c'è un valore ancora con la macchina, o no? Valore lo fai tu, Antu, capito? A chi è amante di quelle macchine? Quando sono macchine datate, che sa diventare anche a interesse storico, poi lo fai tu, certo, tenendoti nel prezzo di mercato, se no te la tieni una vita così e non riuscirai mai a darla. Tu si può volere un Land Rover? Da tante cose, Antu, sei normale, sei preparata, se la carrozzeria è buona, capito? Da tante cose. Per dire, ci sono modelli della mia, dell'età di quella che c'hai voi, lo stesso anno, e anche a 20.000 riesci a darla. Davvero, così tanto ci vale? È normale dalla casa quanto costa, quanto ci vale? Guarda, ce ne sono, per dire, quel modello che c'avevo io, anche a 60.000 lo trovi. No, a seconda mano. A seconda mano, normale, tenuta bene, anche 6-7.000 la trovi. Ce ne hanno un valore. Te l'ho detto, ce n'è una una proprio che la vende, che c'ha proprio qual è il 90° anno, diciamo, dai. La sta varando per 60-70.000 euro. Ma no, ma il nuovo modello. No, il nuovo modello devi aggiungerne altri di soldi. Sì, ma è un BM, cavolo. Cos'è un bel di denaro che c'ha macchina? Costa tu, costa, il nuovo modello non so quanto cavolo arrivi, ma ha tenuto solo il nome, ma dentro è un'astronave, cavolo. Tu la porti in fuori strada, fa tutto da sola, fa. Tu devi solamente muovere lo sterzo. Ma hai visto quel fuori strada che ha fatto lì, ecco? Cazzo, quella è una bestia. Quelli sono belli, però vanno dappertutto, ma per quello che facciamo noi non ci passano, tu, sono strade troppo strette. Ho capito. Però cavolo, hanno fatto anche i mezzi militari, hanno fatto. Con quella faccia lì, cazzo, sono delle bestie, pompano un bel. Lo so. Pompano un bel e consumano pure. Lo so. Ma mi pare che avevano fatto anche la campagnola, se non mi ricordo male, o no? No, la campagnola hanno smesso di produrre da quel dì, Antu. Bella. Soltanto che non so se c'era anche la versione a benzina. Sì, quanti anni c'è? Non mi pare che l'avevano rifatta. Ma non so se era per il mercato italiano, non lo so. Comunque quel fuoristrada è cosa delle vecchie, cazzo, è una cosa che non si crede. Cazzo, dice che c'è la capacità micidiale, è progettato proprio per le cose più difficili. Ehi, per l'uso che devono fare loro va più che bene. Già va bene, però non è, insomma, è troppo grosso e tanto pesante. Non so, dice che è eccezionale il nuovo modello. Bisogna provarlo, metterlo all'opera. Macchina che costa, non è? Lo so. Va bene, Anthony, io ti lascio per fare un po' di carica, dai. Se ci sei, anche dopo faccio un paio di passaggi, sennò alle prossime se coincide. Ehi, capo, ciao Daniel, ci sentiamo. Vai, alle prossime. Ciao. Vai. Buon proseguire intanto. Ciao. Dillo che c'è ancora. Oia. Vai, buonanotte a tutti. Buonanotte. E chi è? Chi è? Avanti.